c'è il Ricci Marino che serve per i contatti elettrici, dai. Aspetta, non sarà invece l'alimentatore troppo attaccato all'antenna, no? Vedi un po' adesso questo passaggio. Non è l'alimentatore, è come tu premi, si sente. Aspetta un attimino, vedo una cosa, mi voglio leggermente sentire un po'. Senti, sì. Vediamo se ti fa sentire. In effetti ha ragione. Ma ti ho detto più la mia parola, stai perché. No. Sento questo. Appena schiaccio la portante, se siete. Io ti ho detto anche quello che. Devi metterci dello spray nel PTT. Lo smonti. Guardi dove c'è. Dove appoggia la leva della portante. Il lavoro che fa. E li metti lo spray in quell'interno, quel buchetto, quel buco che c'è internamente. KK, adesso non l'ho fatto per esempio, no? Dipende dalle volte. KK, però dipende, non so cosa dipende già, da come schiaccio la portante, o è il tastino di plastica che non fa massa bene, o non lo so. Il tastino di plastica prima di tutto massa non deve fare, anche la plastica massa non gli va. Quindi va a appoggiare solo nella stina del PTT. Appoggiando sulla stina la fa entrare verso l'interno e attacca la portante, capito? Ah, cazzo, allora l'ho scritto nel libro nero adesso, eh? Che cosa? No. E dici un cazzo che fa male la massa, la cosa, la portante. No, scherzo, dai. No, vabbè, intanto vuole spruzzato, perché mi sto accorgendo che alle volte lo fa, alle volte non lo fa. Boh, è una cosa. Oh, era un microfono che magari era abbandonato lì nel cassetto, chissà quanti anni, è capito, mai utilizzato. E senz'altro vorrà pulito, soffiato, qualche cosa del genere, dai. E anche spruzzato il CRC, non sempre quello dei bulloni però, eh. No, ma è meglio lo spray per contatti, se dovevi spruzzare i contatti, meglio lo spray per contatti. Se devi fare solo quella parte lì, il CRC Marino va bene, che è per contatti, proprio, per contatti elettrici serve il CRC Marino. Oh, KK, sì, no, glielo spruzzo, dai, intanto ci vuole. Questo è un microfono, chissà quanto lì, è un cassetto, buh. Basta, vai alla GBC, richiedi spray per contatti e te lo dà. Capo, quanto costa già? 9 euro 10 euro costerà pure, non lo costa un po', Però almeno ti fai dare una bomboletta di aria e prima li passi l'aria, lo soffi, no? E poi anche lo spray per contatti. Capo, bene e mezza. Grazie, lo sai quanto ho speso già stamattina? 22,50 euro. Che cosa? Per la concessione. Perché? Perché io già lo sai, no? Ho fatto la concessione, poi ho pagato 12 euro di concessione, più ho fatto raccomandato con ricevuto il ritorno per essere più sicuro che arrivasse, capito? Catta, 22,50 euro ho speso. Ma mi sa che indietro non ti deve tornare niente, che è un'autocertificazione quella che infatti bu. Non ho capito. Per essere sicuro che sia arrivata, già. Io l'ho fatto per il sicuro, capito? Tu allora dovevi mandare una fotocopia. Che cosa? Quella che hai fatto tu, e tu tenerti l'originale. No, io ho mandato l'originale, mi sono fatto la fotocopia io. Sarà lo stesso, bu. Comunque, già, era dove fare il contrario secondo me. Comunque già l'interessante è che ce l'hai e che non crei problemi. Oh, quando sono andato alla comunicazione mi hanno detto che l'originale lo devi spedire a Cagliari con la fotocopia della carta d'identità il versamento. Allora, io in pratica mi è rimasto solo un bollettino del versamento che ho fatto, l'originale, ce l'ho io. L'altro originale l'ho mandato a loro, insieme alla fotocopia della carta d'identità e niente, la domandina che ho fatto, sempre la coppia che l'originale la vogliono loro, capito? Vai. Ma io mi sono fatto anche la fotocopia, capito? Mi hai fatto bene, da questo momento ti può piazzare un'antenna grande. Esatto, perché loro mi hanno detto da in cui lei fa il versamento, manda tutti i documenti, lei può piazzare anche tutte le antenne che vuole. Anzi, addirittura cosa mi ha detto già? Che potevo denunciare due apparati, uno per casa e uno per la vettura. La gettolino due, l'uso sia una stazione fissa e una a casa. Una stazione fissa e una MBM. Ma tu puoi vedere gli apparati che vuoi, paghi sempre col cartolino, non è una fattinuglia. Naturalmente devi avere un omologato che quando vengono deve avere l'omologato. Sì, infatti io ho scritto quel Mubin, il monogatto, infatti mi ha detto ma c'è la marca CE? Mi ha detto certo che c'è, è abbastanza grande, c'è il bullino dietro. Ah, dice sì, ma allora va bene, dice. Lei ci deve mandare il numero della serie, dell'apparato che tiene in casa, più che sia monogatto c'è. Mi ha detto sì, è monogatto c'è, tutto a posto. Dice, ah, dice, va bene. E lei compila la domanda, la spedisca e poi tutto a posto. Non esiste il numero di matricola dell'apparato. Positivo. Raga, è Mobicom. Devi scrivere Mobicom. Sì, gli ho scritto Mobicom Intec MB400 dovrebbe essere. E il numero della matricola che c'era dietro. Gli ho scritto tutto. Già va bene, allora. Già va bene. I documenti tu li hai mandati, sì. Mi hanno chiesto, c'è scritto nel foglio che mi hanno dato, di mandare la fotocopia della carta d'identità e gliel'ho mandata. E allora sei a posto. Allora, sei in pieno possesso della concessione. È positivo, ma loro mi mandano qualche conferma che sia arrivata o meno, pure non lo so io come funziona. Se tu l'hai fatto con ricevuta, ricevuta come raccomandata il ritorno, ti ritorna la ricevuta, la raccomandata e bu. Ah, in modo che loro è come che l'abbiano ricevuta, in poche parole, dai. Se l'ha ricevuta che ritorna a te, quando la ricevono, la firmano e dopo riparte a te. Positivo. Bene. Allora sono tutto confermato come CB, dai. Cabagaba. Da Benemeda, no, perché è giusto farla, perché, ripeto, se era 102 euro, come stava dicendo Pierpaolo, manco, ma idea. Ma me l'ho cagata dall'inizio che non ho scherzo. Io ho sentito Roberto stamattina, Cosa ha detto? Preoccupato, Ira. Ha detto, io prima di pagare, già telefono a Cagliari per quello. E non è giunta. Ho già detto, io ho pagato due ricevi. Ma vai tranquillo, che sei uscito, dice alla gazzetta, dice che se, quella voce lì ti manderanno, ti telefoneranno per dirti che devi pagare l'aggiunzione. Sì, solo questo ci dà vita, io l'ho detto all'inizio. Mi sembra una cosa impossibile. Ma per favore, ma ce ne sono tante cose impossibili. Perché quelli del latte, quando producono il pilo, li mettono la multa? Cosa avete? Certo, per me sembra impossibile questa. 300 passeggeri da diamatori, qui staccano tutto subito. No, dai, era esagerato già. Dai. Io capisco un aumento di cosa posso dirti. Fallo 5, 7, 8 euro, ma proprio massimo, dai, ma 102 euro, dai, era il colmo, Anche 10 euro sembra una cosa eccessiva, non so, 90 euro in più. Anche 10 euro sembrava una cosa eccessiva, perché l'aumentano di poche lire, capito? Tanto loro non entrano i soldi dal numero, capito? Il numero che c'è, se entrano altri CB, allora si iscrivono, si fanno la concessione. E dietro più di là, allora è interessante che rientrare di là. Kappa. Meglio un po' se è entrato Pompone di nuovo. Pompuccio. Ma non ci ha bruciato tutto. Guardate, noi sull'uno a lui risultava 40, boh, strano. Era imbriaco. Adesso non a ridere, ma. scava gara. Ma lo sai che col vino di oggi, cazzo, mi danno i promessi da voi, dice che ruba bucina 22, non so se 60 litri insieme non me ne ha lasciato. Mi ha detto qua mi devi scusare, io se vuoi te la faccio assaggiare una bottiglia, ma più di una bottiglia non te ne posso dare. Ma comandi mi avevi detto dei culiti che mi rimandavi, e invece poi c'era questo 60 litri tutto a 21. Se la vuoi quello, ti è piaciuto quello che ho trovato io? E già è buono, sì, sì, già è buono, ma mia moglie dice che è troppo forte per lì. È buono, è bello ambroso. Io ne ho 5 litri, se li vuoi già te li ho. No, no, no, perché poi mia moglie non ne beve, io ne bevo poco, quindi. Lo vuole più leggero lì, me l'ha detto chiaro e tondo, mi ha detto sì, è buono, ma è troppo pesante per me. Io voglio una cosa più leggera. Io non è che abitualmente ne bevo, mi fa che. Lo stavo facendo per lì, perché è quando viene qualcuno, ma se no, non i vinco. E fatevi un poco da perdente allora. Peggio che peggio, quella proprio non l'hanno uso nemmeno. Se mi capita te lo faccio assaggiare un po' di quello che mi hanno regalato, ma è un bijou, eh. Quello lo metti dentro il caffè appena appena la mattina è spettacolare già. No, no, fa che dico la verità, una volta sono andato a prendere degli agnelli per la ditta, perché noi li prendevamo dal pastore e poi li mangiavamo noi. E sono andato a costruire. Cioè, i pastori stavano mangiando formaggio e salsiccia alle 7 di mattina e ci avevano il vino. Mi hanno offerto un bicchiere di vino, no? E io ho visto l'andata. Prima avevo guidato la parte, poi avevo il cestino del caffè, la macchietta del caffè, il cestino tutto pieno di caffè, di feci di caffè, di bustine, di cose. Tutto, cazzo, era scendivura, tutto in terra, cose, e non la cullia niente, non i buniani la usavano la modesta. Poi guardate i bicchieri, opacchi. No, no, così no, no, no, no, questa persona è tanto di cappello, ma non perché è un amico mio, ma io ho visto come lo fa, come lo lavora, come lo... No, no, no, no, c'ha un'igiene, guarda, fuori dal normale. No, no, su quell'atto lì anch'io sono peggio di te, se vedo queste porcherie qua, ci butto tutto già. Lo prendo per non fare brutta figura, però ci butto tutto. Io non ho fatto così. Come si sono alzati per andare a prendere gli anini, No, no, no, no, è una porcheria, cioè, finché una cosa la vedi che tu con gli occhi tuoi va bene, no, no, no, a prendere una cosa così, poi con la costumine, no, non mi vanno queste cose a me, no. Manca a me, infatti non la giudico, poi se ti guardo il viaggio, mi hanno regalato un buccione d'acqua fritta, tutti i gusti, dice che dobbiamo avere compagnia in viaggio, un cazzo mi pigo un buccione d'acqua fritta e mi ha fatto capposato. Ma come si fa a regalare un boccione? Magari si riferivano per casa, no? Cazzo, per il viaggio, ma che ti voglio vedere bevendo un boccione di vino di acquavite a viaggio? Oh, manco un chilometro vai, sei a terra. Ah beh, sì, beh, avanti break. Ok, ciao Gian. Auguri, ciao, perché noi ci siamo sentiti ieri. Avanti Gian. Ciao Giulio, auguri. Ben sentito, buon anno. Eccomi qua. Ok. Ebbene, la pioggia te la sei presa, Olbia? Ma io no, la verità. Io no. Perché io sono andato al concerto, però, sai, il bambino poi diventa noioso, sono qua, là, l'ho preso per lasciare in pace a loro e... L'ho preso io, l'ho portato in macchina, mi sono confusato in macchina, ma me ne saranno andate due canzoni prima di finire, no? Ed è bastato quello, mi sono confusato in macchina, come in sembarria Eva, appena si non si ce l'aveva. Ma stava la vita lì da coca, sono tornati tutti come pulcini, ma non so quanto era lontano la macchina da dove eravamo. La macchina era, allora, se tu hai presente dove è il porto, ti bloccava, là dove c'è la Gottardi, ti bloccava, non ti facevano entrare, e quindi la macchina aveva dovuto mettere all'inizio proprio del ponte, e poi dovevi fare tutto il ponte, sino arrivare dentro il porto. ho capito. Insomma, è stata una bella avventura. E va bene, quest'anno è andata così, pazienza. Non è un problema, già asciuga l'acqua. Solo che tanta gente magari si aspettava il tempo migliore, si aspettava, gente che è venuta anche da fuori, qui in Sardegna, per assistere appunto con le, a quel concerto, mentre invece poi hanno trovato la giornata che hanno trovato, ma era un po' tutta l'Italia, non era solamente Olbia o Sassari o altri posti, era tutta l'Italia che pioveva quel giorno. Sì, giù, ma diciamo che io quando sono partito la sera mi ha accompagnato la pioggia sino a Monti. Sino a Monti, poi da lì ha cominciato a esserci la strada asciutta, proprio non aveva piovuto, però si vedeva questo grande nuvolone e mia moglie ha detto, cavolo, la nuvola c'è, ma già se ne sta andando via, ha detto, no, quella lì sta andando verso Olbia. E mi ha detto, pindaccio, no, non è questo il pindaccio, che sole che si vede, sta andando verso Olbia, perché l'acqua là l'ha già fatta, e qua invece è ancora asciutto, quindi per logica penso che sia qua che stia avvenendo. Beh, fatto sta che ha cominciato a piovere quando siamo arrivati. Siamo stati a casa, ha cominciato a piovere, barriaffa. Però poi, all'ora del concerto, verso le 7 stava piovendo un bel Olbia. All'ora del concerto si è tutto calmato, pioggia non ce n'era più, il vento si era calmato. Siamo andati lì, ci abbiamo guardato il concerto, anzi, prima abbiamo cenato. Poi siamo andati al porto, hanno fatto i fuochi d'artificio, ma c'è una freddezza che è una cosa buona. Non mi è piaciuto proprio, a Sassari scoppiavano, facevano partita più lo champagne dello spumante, facevano il conto alla rovescia, invece lì non facevano nulla, proprio nulla. Solo a mezzanotte hanno scattato il fuoco d'artificio senza dire una parola a niente. E ci siamo fatti gli auguri noi, tutti i gatti che erano un po' freddi, a Sassari ho visto, una volta che sono andato ci facevano gli auguri senza conoscerci tutti quanti. Evidentemente hanno un carattere un po' freddo da quelle parti, e chi lo sa, evidentemente è così. Ma va bene lo stesso, si accetta tutto già, non ci sono problemi. Avanti, Falchè. Cappa Giulio, dai, buonasera anche a te, è ben ascoltato. E niente, purtroppo sono così i concerti, però a Sassari c'è più calore rispetto a Olbia, in effetti confermo quello che dice Gianni, sono troppo freddi in quel paese lì, Giulio, così è. Cosa ci vuoi fare? Evidentemente loro usano fare così. Diciamo che cioè, se dovessimo noi paragonare il carattere del sardo in genere, non solamente quello di Olbia o Gallura compresa, ma di tutta la Sardegna, rispetto a quelli del continente, perlomeno io parlo dell'Alta Italia, c'è un po' di differenza, cioè, no, sono più calorosi, partecipano di più ai concerti, io me ne sono reso conto tante volte. Il sardo è un po' restio ad applaudire, sì, magari apprezza ugualmente, questo non significa che non apprezzi il fatto che non applaude con una certa foga, eccetera. Però il continente partecipano di più, partecipano agli spettacoli, capito? Per dire, non so, quando un cantante sta cantando, intonano il coro e così via, mentre in Sardegna c'è un certo... Questo non vuol dire che non si apprezzi lo spettacolo o la persona che sta cantando, capito? Caparose, no, ma lo fanno anche qua, no, niente di... Non bisogna stupirsi, anche qua siamo calorosi, anzi forse meglio del continente, solo che loro sono più, diciamo, ma anche noi già ci difendiamo lo stesso, riprendi già. Saranno aperti più di mentalità, ma come coinvolgimento alla musica è cosa che noi cantiamo e facciamo. Se tu vedi mia moglie stava a casa da squarciagola, infatti ho detto che è per quello che ha piovuto. Sì, già, ma questo sì, non ci sono dubbi, ci sono delle persone, ma se dovessimo cercare il numero dei partecipanti sardi, il numero dei continentali. Boh, io me ne sono reso conto tante volte, io ho seguito tanti concerti di vari livelli, sia italiani, sia anche in sardo, anche in sassarese. No, ma mi sono reso conto che c'è non dico il distacco, però una certa freddezza, forse siamo troppo restii, non abbiamo voglia di applaudire a lungo, magari si applaude per 5 minuti perché hai cantato due canzoni belle, però poi tutto in un'intera serata poi la gente ho la sensazione che si sta anche in fretta, non si coinvolge proprio a pieno come ho visto certe platee fuori in continente che addirittura ballano, cantano, si divertono proprio alla grande, capito? Già. Ma comunque non ce ne frega niente di loro, noi abbiamo il nostro carattere e siamo orgogliosi di tenerci il nostro, non ti sembra? Già? Vabbè, no, ma poi dipende anche dal cantante quello lì, perché c'è il cantante che ti coinvolge e quello invece che è più freddo. C'è il cantante che poi dice smette di cantare e fa cantare il pubblico, e come faceva anche la Raposi l'altro giorno. E smette di cantare di colpo e le parole dice il pubblico. Tanto è vero che ha detto siete belli quando cantate insieme a me, questo e quell'altro, a voce alta. Poi ha detto amo la Sardegna, anche perché c'è un ragazzo sardo. Lo so, sì, lo so, lei infatti sta insieme ad un cantante sardo, che poi tra l'altro scrive anche le canzoni. Tant'è vero, quel ragazzo, quello nuovo di Cagliari, di dove quando è uscito da Amici col Marco Carta, se non sbaglio si parla, si chiama, anche quello diciamo che usufruisce delle canzoni scritte appunto dal fidanzato o cosa gli è della Pausini, capito? È tutta la genga, comunque va bene lo stesso, no, non ci sono problemi, ci mancherebbe. Noi, vi ripeto ancora una volta, siamo orgogliosi di noi stessi, di tutta la Sardegna intera, sicché non ce ne frega niente di loro se per caso ci dovessero in qualche modo criticare, ma non credo che ci criticano, perché il sardo è un popolo di persone come si deve, di conseguenza non abbiamo niente da imparare da nessuno, Falchè, avanti Falchè. Cappanosa, confermo quello che hai detto, noi non siamo da invidiare a nessuno perché siamo abbastanza calorosi e ci piace anche vederle queste cose, dai, grosso modo. Ok, dai, riprendi Gianni. Comunque, tutto si può dire, ma era un grandissimo spettacolo, una grandissima organizzazione, un palco molto grande, la musica era a livelli molto alti. C'erano addirittura 4 tir per caricare la roba, non ti dico 4 tir. Sì, già, ma è così, beh certo, quella gente lì non è che sale su un camioncino, no, come fanno certi gruppi che noi conosciamo anche, quella gente è attrezzatissima, che ha un'organizzazione straordinaria, non ci sono dubbi. Del resto Laura Pausini è una dei cantanti più belli, non solamente in Italia, più bravi anche in Europa e nel mondo addirittura, ha fatto tantissimi concerti, è apprezzatissima, lo sappiamo, no, questo ci mancherebbe altro, questo sì è vero, però alle volte magari, ad esempio io l'ultimo concerto che ho assistito, qui avevano fatto le punti ed erano, come si chiamano, quei tre che cantano insieme, accidenti, non mi ricordo come si chiamano, Ricchi e Poveri, ed era un'organizzazione, in quella piazza degli punti in quel giorno, è qualche mese fa, non è da molto, era alla fine di quest'estate, e c'erano oltre 50.000 persone, non lo so io, venute da tutte le parti, capito? Ed era un bel concerto veramente, tu sentivi anche le persone anziane di una certa età che venivano coinvolte anche nel cantare certi tipi di canzoni, cioè quelle più in là, diciamo, dei tempi moderni di oggi, capito già? Gava. Io li ho visti a Campanella qui. No, sono bravo. Angela mi piace. Bravissima, è straordinaria come cantante, ha una voce eccezionale, veramente. Sì, beh, certo. Vabbè, dai. Ci piace questo, ci piacciono tante altre cose. Dunque, apprezziamo quando c'è da apprezzare e magari possiamo anche criticare quando c'è da criticare, ma comunque accontentiamoci. Vai, Falchè. È così, alla fin fine è così. Va bene così, noi ci accontentiamo lo stesso, dai. Anche se dei concerti che ho visto, per esempio quello di Renato Zero, come si chiama l'altro canale, c'è il naso lungo, adesso non mi viene in mente il nome, cioè li hanno presi a pomodori, non vanno bene queste cose, dai. Battiato volevo dire. E battiato che non ci viene più poi in E appunto, cioè non so cose neanche belle da fare, dai. Uno viene qua a fare un concerto, se non ti piace startene a casa tua, cioè io dico questo, se un cantante non ti piace, startene a casa tua e non rompere le scatole, tutto qua. Che Battiato è un cantante che ha recontro palle anche suonando, ha fatto il conservatorio, è un cantante che la musica l'ha studiata. Infatti, riprendi Giulio. Ok, infatti hai detto bene, se uno non è contento di quello che ascolta, non è detto che deve fare certe cose, quindi sono persone maleducate e basta. Quello. Se non apprezzi, vattene, nessuno ti trattiene, che vuol dire? Cassettina, magari non piace a te, piace agli altri, cosa vuol dire? Ma non sai com'è, o qualche, si sa, poi nella massa c'è sempre il solito... cosa, come si dice, pagliaccio che rompe le scatole, ma lo sappiamo, no? Anzi, è già una fortuna quando alle volte non si azzuffano, c'è gente che provoca e poi si azzuffano, eccetera, eccetera, ma sono cose assolutamente da condannare, ci mancherebbe altro, non sono accettabili nella maniera più assoluta. Io ho tutto un'altra idea e un altro carattere riguardo a queste cose, vai già. Tanto la figura l'hanno fatta i sardi, per quattro imbecilli maleducati che ci sono, come hanno fatto anche con Megalin, che gli hanno tirato l'acido muriatico, meno male non l'hanno preso, però ce l'hanno arrestata quello lì. Ci sono sempre queste persone, già, non va bene, dai, una persona quando non lo prova e non sopporta un altro essere umano, ma ritirati, chi è che ti dice che devi per forza ascoltarlo, oppure lo devi sopportare, non lo puoi sopportare, vattene, nessuno ti dice, un po' come il discorso e la statuetta che hanno tirato a Berlusconi Junior Sono, cosa vuol dire, se tu non apprezzi la sua idea politica, non è detto che tu gli devi buttare una pietra addosso per spaccargli la faccia, non va bene, dai, oppure quell'altra deficiente che va e spintona il Papa, ragazzi, da così col rischio di farlo cadere l'anziano com'è, lo puoi anche ammazzare se batte la testa. Queste sono persone, non sono malate di mente, io non lo so, ma sono cose assolutamente assurde da fare. Se non apprezzi, vattene, nessuno ti dice che devi restare lì obbligato ad ascoltare. No, non va bene, assolutamente. Vai, Falchè. È positivo, confermo anch'io, cioè non vedo motivo, se non ti piace un cantante perché devi andare lì a fare casino, cioè nel senso, scusandomi la frase, cioè ritirati, basta, non ti piace, ti metti da una parte e basta, non stare lì a rompere le scatole a chi è interessato a guardare lo spettacolo o quello che sia lì per lì, capito? Riprendi già. Allora. Ma c'è gente che lo fa proprio con proposito, deve scompigliare sempre quello, ce ne sono tanti, ce n'è qua in radio lo stesso che lo fanno, quando ti senti una persona che sta facendo un certo discorso interessante, per scompigliare entrano, fanno casino e poi se ne va. Cappa di roggero, ma non stanno bene neanche queste cose, l'escopo dovrebbe essere più guardingo su determinate cose, capito già? E purtroppo mi sa che è tutto negativo con il discorso che faccio io, capito? Ma l'escopo se non fa queste cose, controlla sotto segnalazione il radio che magari disturba queste cose qua. Anche se io lo vedrei giusto che controllassero anche un po' l'andamento, perché noi paghiamo e vogliamo essere anche tutelati da certe persone. E così si conferma. Riprendi giù. Ok, infatti. Sì, ma è così. Lo sappiamo, il maleducato c'è sempre, ecco. Per quanta civiltà ci possa essere in giro, ma c'è sempre quello che scantona, che sconfina in azioni assolutamente assurde. Questo è vero, no, va bene, non va bene. Nella maniera più assoluta. E vabbè, e cosa vuoi fare? Non lo so, non siamo certo noi che dobbiamo diciamo così, rimediare a certe azioni. Ci sono le leggi, ci sono, le loro conseguenze le avranno e saranno pure responsabili di quello che fanno, è peggio per loro. Solo che alle volte, come nel caso di Berlusconi, ripeto, se tu non hai lo stesso ideale politico e non lo apprezzi, nessuno ti obbliga ad apprezzare o ad avere lo stesso ideale politico, ma non per questo tu gli devi tirare una statuetta di marmo o di pietra, di cosa era, non lo so, in faccia a una persona, ma vuoi scherzare, ma questo c'è comportamenti da persone selvagge, da delinquenti, io direi addirittura, no, va bene, nella maniera più assoluta, non va bene, infatti il fatto che ne va anche l'immagine della nazione stessa, e poi fare del male al prossimo non è certamente un comportamento ideale per nessuno, ma nemmeno agli animali, non si devono fare assolutamente queste cose, quelle persone sono da esiliare, poi non dico da ammazzare, ma non meriterebbero, però almeno da esiliare, mandali lontano dove non li può vedere più nessuno e dove non incontrano più nessuno, così almeno non fanno del male, capito? Qualche Caparosa, confermo anch'io, così è purtroppo. Ok, dai, riprendi già. Vabbè, tanto sono tutte parole le nostre, agiscono sempre come vogliono. Secondo me quella ragazza lì si sono serviti sapendo che non era giusto di testa, qualcuno che odiava Berlusconi si è servito di lui per fargli del male. Io per dire non sono di destra, però rispetto le idee di tutti e sicuramente non farei mai un atto del genere, per carità, non esiste, nella mia educazione non esiste fare certe cose. Uno può discutere, può avere un discorso anche animato, però arrivare a tirare le statuette non sta bene. Kappa, riprendi giù. Ok, non va bene, no. E lo stesso discorso vale anche quando si va negli stadi a vedere una partita, questi scalmanati che entrano lì in tribuna, caspita, che fanno e disfanno tutto quello che gli viene in mente, con catene, con bastoni, addirittura hanno buttato il motorino dalla gradinata qualche anno fa a Milano, ma quando mai, caspita, queste persone non si riesce ad eliminarle, non si riesce forse perché non si vogliono eliminare, che ne so, io però penso che il sistema c'è, perché c'è sicuramente il sistema di far stare a posto suo le persone, questa frangia di pochi delinquenti che ci sono in una massa magari di 30, 40, 50, 80 mila spettatori allo stadio, questi 100 scalmanati che potrebbero creare disordine e fare danni e soprattutto fare del male agli altri, no, non va bene, nella maniera più assoluta, quella gente è da condannare e da buttare le chiavi in mare, non lasciarli marcire in galera, capito già? Purtroppo giù, la vita andrebbe troppo liscia se non ci fossero tutti questi inghippi, ma ogni tanto se ne sente una nuova, che ti lascia a bocca aperta quando guardi il telegiornale. Lo so, in effetti è così. Alle volte, ragazzi, accendere la televisione per sentire le notizie dà anche fastidio, perché senti certe cose, caspita, assurde proprio. È lo stesso discorso, dicasi ad esempio per il fatto dei petardi, lo sappiamo che questi petardi sono tutti gli anni molto pericolosi, vedi adesso quel ragazzo di 17 anni che gli è scoppiata la bomba in mano, caspita, e ha perso la mano, altri che hanno perso le dita delle mani, anche persone adulte, quel povero cane che caspita gli hanno fatto scoppiare un petardo fra le zampe e l'hanno dovuto portare a curarlo, ma sono cose, caspita, non è possibile, guarda. Io non lo so, il cervello della gente alle volte come funziona, capito? Vai, Falchè. Kappa, no, ho sentito uno sotto già, ma che era? Qualcuno voleva entrare? Va, non c'è nessuno. non ho sentito niente io. Ah, poi comunque si sa, io a casa mia i petardi non entrano, io so già il pericolo che hanno. Io già ho fatto un intervento una volta a Capodanno e mi è bastato, uno si è sparato con la pistola nella mano e ha detto che era con una scacciacane, invece non era vero, era la pistola vera perché è intervenuta la polizia e ha detto che la scacciacane non fa il segno del proiettile da una parte all'altra della mano. Lo so, ma hai visto oggi al telegiornale quello che era su un terrazzino, adesso gli è arrivata una revolverata, gli è arrivata, gli è entrato il proiettile nella testa, ha percorso un tragitto e fortunatamente si è fermato in un punto dove non dà fastidio più di tanto, nel senso che non muore, ecco, già si salva. L'hanno operato, gli hanno tolto il proiettile, ma quando mai uno è privo anche di affacciarsi a casa sua in un terrazzo, si mettono lì a sparare così queste pallottole che vanno vagabondando in aria, gaspita, e prende sempre. Così l'anno scorso lo stesso, ti ricordi quella donna che aveva sparato ed era morto un altro uomo? Tutti gli anni succedono sempre di queste cose, ma è possibile che non si debbano evitare? Boh, non lo so. Vai, Falchè. Capo, io infatti stavo seguendo di quel signore lì, e che addirittura era sceso lì al suo paese, e sardo questo tipo era sceso al suo paese, mi sembra che sia a Catania, non so dove, e per festeggiare il Natale, poveraccio, che ha festeggiato bene il Natale già, già stiamo andando bene già, dai, riprendi già. Io mi fidi queste occasioni qua. Ti allontano sempre dalla finestra, gli dico sempre di non affacciarsi che è pericoloso, che non si sa mai che imbecille spara col fucile qualche cosa e ti piglia faccia. E più petardi non ne devono scoppiare loro a casa, niente da fare, mi dispiace, però ne ho visto troppe giù, quindi mi sono reso conto di che cosa possano fare. Ok, già, sì. Scusami già, devo assentarmi che è venuto un amico a salutarmi e per fare gli auguri a me e in famiglia qua. Vi devo lasciare al momento, dai, c'è questo amico adesso e devo attendere. E ci sentiamo eventualmente in serata. Ciao Gianni, grazie per il piccolo QSO, ci sentiamo, io rinnovo gli auguri di buon anno a te e famiglia, altrettanto dicasi per te, Falchè, stesso discorso, non cambia di una virgola, ci sentiamo nei prossimi, dai. Probabilmente magari in serata. Ciao a tutti, riprendi Falchè. Ecco, passato tutto giù, dai, buon QRT, e ce la saltiamo alle prossime, riprendi già. Ciao Giulio, ciao, buona serata, dai, ci sentiamo QRT. Contraccambiato tutto al 100, gli auguri a te famiglia, ciao ciao, ci sentiamo, avanti Falchè. Yeah, avanti. Buonasera a tutti, buon inizio di anno e rilancio il tutto a Gianni subito. Ciao Falchè, ciao Giulio, se qui ti ascoltano la K3-2. Allora, ti faccio subito la domanda, Gianni Do Giuro, quant'è il canone per la 27 quest'anno? Io ho pagato 12 euro, l'ho fatto stamattina. Io stamattina dove vuoi andare, però ho detto che si è aumentato, allora lo paghiamo lunedì, già, lo paghiamo lunedì, piglierò il modulo, tutto ok, così, fatto fatto, e non ci pensiamo più, riprendi Falchetto. Cappa Rogero, anch'io ho pagato stamattina 12 euro, Capri 2. Ok, comunque buonasera a questa parte, buon anno anche a te e QRA familiare, riprendi Gianni. E poi c'è qualche aumento, già ce lo fanno sapere, non ti preoccupare Capri 2, si darà l'aggiunzione a quello che abbiamo pagato. E ieri Pierpaolo ha fatto uno scherzo, ha detto a tutti che si paga, che era aumentato il canone, che si pagava 102 euro. Ok, già va bene, per chi le piace già lo pagano, se sei quello appassionato. Tanto già, 102 già, già c'è quello della televisione qui nei mesi. Comunque io posso modulare perché non ho pagato, posso modulare fino a quando? Fino al 31. E ok già, Roger al 100 già si paga, lunedì si paga tutto, poi se vogliono tanto già lo sei al giorno quanto mi bellissimo concerto è stato, un bellissimo concerto coinvolgente. All'inizio praticamente quando siamo arrivati era mezzanotte meno 5, a mezzanotte e punto hanno fatto i fuochi artificio. E i fuochi d'artificio che hanno dato sino a mezzanotte e mezzo circa. Da mezzanotte e mezzo, come hanno finito i fuochi d'artificio, si sono accese subito le luci del palco, che era enorme, era grandissimo. Le luci del palco e si è già lì cantando, e da lì è cominciato il concerto. Poi io due canzoni prima di finire me ne sono andato con Marcolino perché aveva sonno, sono andato a portarlo in macchina a dormire. Ebbene, ho fatto che me ne sono andato, perché poi ha cominciato un acquazzone, se ne sono tornati tutti come pulcini. Infatti io mi stavo pensando, perché qui quella sera è iniziato a piovere, ho già fatto Gianni andare a Olbia a vedere il concerto, e sempre pregando poi che migliorasse, che lasciasse, che c'era lo spazio almeno per farvi ascoltare. Però anche lì già, quando piove così, che c'hanno certi servizi piazzati anche, una roba pericolosa e anche dannosa agli strumenti e tutto lì. Comunque, spero che le feste siano andate bene, io sono ancora in piedi, mi sono anche rotto e speriamo di rientrare. Ok, perché non ho più voglia di stare in casa. Riprendi qualche... positivo, là. Già ci voleva un po' di riposo, capito? Già ci vuole anche quello. Va bene, anche noi riprenderemo lunedì e saremo alle grandi armi, capito? Ok, dai, fai girare per Gianni, dai. Ok, lo girerò al 100. E più che altro sono buono, io mi sono abbuffato poco, non quasi a cene, guarda, mi sono abbuffato poco, poi mi rendono anche di malumore. Sto rinchiuso, hai capito? Non era da me a stare così, e purtroppo devo stare al gioco, devo stare, riprendi già. Prendi un po' di soldi e io vieni a Sassari che ci facciamo una mangiata. Non ho problemi già di quello, no? Non ho problemi, di quello lì non ne ho proprio problemi, diciamo proprio perché sto diventando un orso e da un po' di tempo a questa parte. E cosa ti volevo dire? Non hai sentito nessuno, già aspetta un po', poi non c'è venuto, no? Già. Forse sto mantenendo di fregarle la 25. Ah, non penso. Io l'ho aspettato, vabbè, l'ho aspettato, io non esco, se vieni mi trovi a casa, mi trovo, perché non esco, hai capito? Poi anche il tempo già stava più vicinando e qualche volta la mandava per proprio sul piovere, quindi non so di ancora, mi guardo la macchina, c'aveva un problema lì, adesso c'ho lo scuola, così il Ducato, l'elettrauto, speriamo che lunedì apra, cosa pensi, già apre, c'è un problema lo scuola bus. Sì, lunedì sì, lunedì penso che apra, almeno che si abbia fatto un ponte lungo. Comunque il concerto è stato molto bello, a parte qualche ubriaco che ogni tanto si buttava addosso al bambino, ho dato un paio di spintoni perché gli ho detto, non te ne dico, dice bambino, scusa l'amico me, scusa, ho detto, vedi che lo stai schiacciando, spostati da qua, e si è andato sullo spinello, vicino a noi, non si poteva stare dall'odore del fumo di spinello. Positivo, è bene che abbia avuto quella reazione, perché giustamente è un bambino, cioè poi col padre è ancora meglio, ho capito. Ma di quella gente stupida se ne trova, purtroppo così, capito? Dipende, perché secondo chi trovava sarebbero arrivati subito alle mani e senza problemi. Avanti già. Ma ce n'è più di uno a mettere le mani addosso, ma era il primo giorno dell'anno, io devo attaccare la prima, poi c'è sempre a far rete. Guarda, c'è la gente che vuole prendere in carta. Siamo capitati camminando, abbiamo sbagliato rotta, siamo capitati in una pozzanghera di acqua, non ci facevano entrare nel gruppo, non ci facevano passare. E tava a vedere che c'è il bambino, ma non abbiamo detto noi di andare in mezzo all'acqua, ma va a far Napoli, va. Ci sono già, io qui, Olbia già, guarda, è proprio gente, io pieno di amici, se non si possono contare sulle cinque dita, però c'è gente, capito, già, che c'è un carattere non accogliente già. E infatti ho visto. A parte che sono freddi come un iceberg, io ho partecipato a concerti a Sassari, malgrado non ci fossero grossi cantanti, però facevano la conta alla rovescio, tutti sparavano con gli spumanti, si facevano gli auguri anche se non si conoscevano, lì c'era una freddezza. Ne hanno fatto la conta alla rovescia, né nulla, proprio cioè hanno... sono esplosi i fuochi d'artificio senza così, a mezzanotte in punto, bellissimi, in nulla da dire, ho fatto anche il filmato, però una freddezza unica, capito? Io sono capito a dei noi che siamo tutti quanti molto ospitali, uno con l'altro, anche nei paesi limitrofi di Sassari, sono tutti quanti belli ospitali, ma lì è proprio una cosa allucinante. Ma io lo so già da quando ci andiamo a suonare, che ci sono parecchi fisarmonicisti che si credevano, noi siamo andati a fare anche alla Maddalena, una manifestazione che fanno ogni anno della fisarmonica, e questi stavano dando arie già, ero scocciato, ho conosciuto nel parco, detto, lo vedi quello lì, quello che ti mi fa pensare, cioè, ma come noi non ce n'è, noi siamo i numeri uno, ma quando sali nel parco, detto, quello lì ti fa pesi, quello che nell'alfa seduto ti fa pesi, crepati il calcio al figlio, a lui altri che ce n'erano, perché loro ci hanno dato già anni di superiorità, già da quando erano arrivati in disparte, questi erano 4-5 tutti di Olbia, e poi ce ne sono andati con la coda, non pensavo, tu dopo, non devi pensare, non serve a niente, detto, devi dimostrare fatti e parlare a parte, non serve a niente. Tutti zitti, ho state zitti che qui ho detto, ti faccio altri chilometri, che li smontiamo noi questi, perché si credono già per credersi, e lì diciamo non è a parlare, lì puoi pensare, bisogna dimostrare chi sei, e ne ho 4-5 amici di Olbia, però veramente in gamba già, però altri non cercarne perché ci sono andato a farti amicizie, a farti cosa, loro sono sempre superiori agli altri, si credono già, capito hai, e come Sassari stai dicendo tu, che la classica roba, c'è un fraiola che si beve, amico mio così, capito, si entra subito in greppa, però lì non è così già, si prendi qualche... positivo, confermo anch'io. Io ci ho lavorato un annetto lì e conosco, via, conosco le mie pecore, va. Comunque, riprendi già, bisogna fregarcene e basta. No, vabbè, sono cose che io non ho tanto usato a vedere il concerto, non a loro di certo. A me non me ne frega nulla di loro, io volevo vedere la pausina. Cioè io, mia moglie più che altro, perché mia moglie è molto appassionata delle sue canzoni, quindi mi sembrava opportuno accontentarla, e così abbiamo fatto.